TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Migranti in Porto Vecchio a Trieste, da questa mattina la chiusura di altre strutture, spostati richiedenti asilo, non tutti troveranno una sistemazione. Omicidio di Bicinicco, scontro di perizie in corte d'assise, divergono le relazioni degli esperti sull'accusata e sulla sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. La schedatura degli insegnanti di sinistra da parte di Azione Studentesca Pordenone, l'ufficio scolastico regionale ha avviato un'indagine. Case di comunità, primo mese di attività a Trieste, una cinquantina di accessi al giorno per la struttura aperta presso l'ospedale maggiore. Abdus Salam, a 100 anni dalla nascita, un omaggio al premio Nobel che fu tra i fondatori da parte del Centro Internazionale di Fisica Teorica. Il concerto di Cesare Cremonini inaugurerà a Gorizia lo spazio del riqualificato aeroporto. Sarà la tappa di apertura del suo tour. 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Andrei Marušić. Trieste, i migranti in Porto Vecchio. Questa mattina una nuova operazione per la messa in sicurezza dell'area e la chiusura di altre strutture nelle quali numerosi migranti esclusi dal programma di accoglienza trovano riparo. Anche stavolta non tutti avranno una destinazione, molti dovranno trovare un nuovo ricovero. Atteso per il giorno precedente, è cominciato poco dopo le 7 il nuovo sgombero di richiedenti asilo dall'area di Porto Vecchio, a pochi giorni di distanza da quello del 22 gennaio. Forze dell'ordine nei fabbricati per verificare la presenza di persone, ma anche migranti che si sono presentati spontaneamente, nella speranza di trovare una sistemazione in un centro d'accoglienza. Tutti in fila davanti al gazebo della Croce Rossa per le operazioni di identificazione, chi con tutta la documentazione delle domande già presentate, chi senza. I controlli sono stati decisi in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e coordinati dalla Prefettura nell'ambito del monitoraggio dell'area, anche in seguito ad alcuni episodi di incendio. A essere interessati sono stati questa volta gli edifici 7 e 10, dopo che da dicembre sono stati chiusi altri 4 magazzini in disuso. Contemporaneamente la prefettura lavora per alleggerire il sistema di accoglienza attraverso il trasferimento dei richiedenti asilo in altri centri di accoglienza del territorio nazionale. L'obiettivo è quello di prendere in carico i richiedenti asilo che avevano trovato temporanea dimora negli edifici fatiscenti del Porto Vecchio di Trieste, anche in vista dell'apertura dei cantieri per la riqualificazione della zona. Ma se per una parte dei richiedenti asilo lo sgombero apre la porta a una sistemazione, il timore è per gli altri, come spiega Lorena Fornasir di Linea d'Ombra. Per pochi che vengono trasferiti, dice che hanno diritto all'accoglienza, tutte le altre persone dove andranno? Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca giudiziaria, a Udine una nuova udienza nel processo per l'omicidio di Bicinicco. I fatti risalgono a un anno e mezzo fa, quando una donna uccise un amico con il quale aveva condiviso un percorso di tossicodipendenza. Scontro tra perizie psicologiche in corte d'assise a Udine nel processo per l'omicidio di Bicinicco. Assente in aula l'imputata Silvia Comello, che il 4 maggio 2024 uccise l'amico Stefano Jurig dopo aver assunto stupefacenti, colpendolo con coltelli e forbici e versandogli addosso acido muriatico. Comello aveva parlato di Jurig come di un demone da dover sconfiggere. Per tutti e tre gli esperti ascoltati, la donna è socialmente pericolosa, ma le valutazioni divergono sulla capacità di intendere e di volere. Secondo il perito del giudice per le indagini preliminari, Lorenzo Ventre, Comello era pienamente capace. Quel giorno fu giudicata lucida al CERT, tanto che le fu data una dose di metadone settimanale, non giornaliera, cercò altra droga, cocaina, e guidò fino a casa della vittima mostrando una condotta logica. Per il consulente dell'accusa, Marco Bertoli, Comello sarebbe stata solo parzialmente capace. L'assunzione è stata sì volontaria, ma la donna alla base è affetta da 3 disturbi cronici di personalità, schizofrenia con tratti mistico-persecutori e tossicodipendenza. Netta invece la perizia della difesa. Per lo psichiatra Francesco Piani, Comello non era consapevole delle conseguenze omicidiarie al momento dell'assunzione della sostanza. La donna era totalmente incapace di intendere e di volere, travolta da un grave delirio allucinatorio scatenato dalla cocaina. Al CERT il metadone viene somministrato senza esame psichico accurato. Piani ha parlato di vita autistica popolata di allucinazione e deliri e di compromissione grave sociolavorativa. Nel 2017 Comella aveva provato a uccidere una sua compagna di stanza, anche lì dicendo che voleva eliminare il demonio, e le fu fatto un TSO. Quell'episodio non fu scatenato da sostanze, per le quali la Comello negli anni ha sviluppato grande tolleranza. La quantità di cocaina e metadone ritrovate nel suo sangue sarebbero stati tossici o quasi letali per un altro soggetto. La valutazione sulla capacità di intendere e di volere è determinante per portare a riduzioni di pena o non punibilità. Comello rischia l'ergastolo per l'accusa di omicidio volontario con aggravanti e vilipendio di cadavere. Udine, Lillo Montalto Monella, DGR Friuli Venezia Giulia. È un 55enne con precedenti e ritenuto dai carabinieri di Moggio Udinese il presunto responsabile di una truffa ai danni di una coppia di anziani messa in atto con il metodo dello spoofing, una tecnica informatica che consente di falsificare l'identità del chiamante. Le vittime sono state contattate con il pretesto di presunte movimentazioni sospette sul conto corrente inviate a chiamare un falso centro antifrode che a sua volta dirottava la telefonata verso una finta utenza dei carabinieri. Un sedicente militare ha quindi convinto la coppia a effettuare bonifici urgenti per un totale di 120.000 euro verso conti esteri riconducibili all'indagato. Resisi conto della truffa, gli anziani si sono rivolti immediatamente alla stazione dei carabinieri di Moggio Udinese. Le indagini hanno poi permesso di accertare che il denaro era stato in parte utilizzato per l'acquisto di criptovalute, ma il rapido intervento dei militari in coordinamento con la procura di Udine ha consentito il sequestro della somma e la loro restituzione alle vittime. La sanità, dopo il via libera in commissione al disegno di legge per la proroga dei contratti ai medici di famiglia già in pensione, attende ora il sì definitivo del Consiglio regionale. Sul provvedimento c'era anche l'incertezza della copertura economica che doveva trovare un avallo nazionale. La richiesta di prorogare per un altro anno la possibilità di richiamare in servizio su base volontaria i medici già pensionati negli ambulatori di assistenza primaria arrivata dalle regioni è stata dunque recepita dal governo con l'emendamento al decreto mille proroghe depositato ieri. Un passaggio importante, spiega l'assessore regionale alla salute Riccardi, perché affianca e amplia il disegno di legge della regione che già autorizza da qui a fine anno le aziende sanitarie a contrattualizzare medici pensionati per sopperire alla carenza di professionisti. L'emendamento del governo serve ad le necessarie garanzie per mitigare l'impatto fiscale e previdenziale per i medici pensionati che scegliessero di tornare in servizio, aspetto quest'ultimo di esclusiva competenza dello Stato, aggiunge Riccardi, che parla di lavoro condiviso tra regioni e governo. Il provvedimento ora è all'esame delle commissioni affari costituzionali e bilancio della Camera e si prevede possa essere licenziato alla Camera entro metà febbraio. Il disegno di legge della regione, appena approvato all'unanimità in terza commissione, sarà invece norma cogente prima, già il 2 febbraio, quando proderà in aula, rammenta Riccardi. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Primo mese di attività per la casa di comunità aperta a fine dicembre presso l'ospedale maggiore di Trieste, una delle 32 che entreranno in funzione da qui ai prossimi mesi, come previsto dal PNRR in Friuli Venezia Giulia. La struttura finora ha fatto segnare una cinquantina di accessi al giorno. L'ingresso è lo stesso all'ospedale maggiore di Trieste. Pronto soccorso e casa di comunità recitano le indicazioni, ma oltre le porte a vetri le strade si dividono a seconda delle esigenze dei pazienti. Solo le urgenze finiscono in pronto soccorso, gli altri agli ambulatori medici e infermieristici di questa casa di comunità, una delle 32 previste dal PNRR in via d'apertura in tutto il Friuli Venezia Giulia, con assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 6 quelle che serviranno l'area giuliana. Carlo Rotelli, program manager della Casa di Comunità di Trieste presso il Maggiore. La Casa di Comunità si è articolata fino a questo momento all'interno dei servizi ritenuti essenziali secondo normativa e deve arricchirsi integrandosi con tutti gli altri servizi ospedalieri e territoriali. Alcuni esempi importanti: i servizi di salute mentale, quelli dedicati alle dipendenze, i servizi consultoriali familiari e in generale la medicina di famiglia. Questo senza far venire meno il rapporto diretto dell'assistito col medico di base. Esattamente, e dobbiamo sempre ricordare che la casa della comunità non sostituisce, non elimina l'esistente, ma si integra e si aggiunge all'esistente. Da dove proviene il personale che presta servizio in una struttura come questa? La direttrice dei distretti sanitari 1 e 2 di Trieste, Monica Bonetti. i servizi, le funzioni della casa della comunità sono servizi e funzioni distrettuali che già esistono all'interno dei distretti, dove appunto ci sono professionisti di vari ruoli e vario titolo con delle competenze che semplicemente sono state trasferite e verranno trasferite dalle sedi distrettuali alla casa della comunità. Certamente bisognerà ripensare ad un'organizzazione soprattutto oraria, perché la casa della comunità dà più spazio, più orari, più accesso ai cittadini, e in questo senso ci stiamo lavorando. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia. Ha avuto vasta eco l'iniziativa avviata a Pordenone da una organizzazione studentesca di destra, la raccolta di segnalazioni di insegnanti che fanno propaganda di sinistra. La vicenda è diventata un caso politico nazionale e ora l'ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia vuole vederci chiaro. Ci ha raggiunto in studio Alessandra Zigain. Sì, l'ufficio scolastico regionale, ci ha detto questa mattina la dirigente Daniela Beltrame, ha avviato un'indagine sul volantino comparso al Majorana di Pordenone, dove si chiedeva tra le altre cose di segnalare insegnanti che a lezione fanno propaganda di sinistra. Sto raccogliendo, ci ha detto la dirigente, tutte le informazioni utili a ricostruire la vicenda e il suo contesto, informazioni da inviare al Ministero, come richiesto peraltro dal Ministero. Nel contempo il prefetto Michele Lastella, il prefetto di Pordenone, al quale un insegnante della scuola aveva presentato un esposto reso pubblico dalla CGL, ha già affrontato la questione con le forze di polizia che, fanno sapere dalla prefettura, si sono attivate per quanto di loro competenza. La vicenda, come hai detto, ormai è un caso politico nazionale che ha coinvolto anche altre scuole in Italia e portato a interrogazioni parlamentari e interrogazioni in Consiglio regionale. L'iniziativa è di Azione Studentesca, movimento vicino a Fratelli d'Italia. A Pordenone sarebbe andata così. Il 17 gennaio sul muro dell'istituto è comparso un QR code attraverso il quale si accedeva a un sondaggio su vari aspetti riguardanti la scuola. La domanda che ha sollevato la polemica con tanto di evocazione di liste di proscrizione tristemente note è questa: hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni? Descrivi uno dei casi più eclatanti. Sulla questione non è intervenuto il ministro Valditara, ma la sottosegretaria Paola Frassinetti. Non è una schedatura, ha affermato, e neanche una lista di proscrizione, stante l'anonimato. Non c'è modo finora di approfondire la questione, ma ci sarebbe da capire se l'anonimato di cui parla Frassinetti è solo degli studenti invitati a compilare il questionario o anche, come presupporrebbe l'affermazione del sottosegretario, dell'insegnante eventualmente accusato di propaganda, ma dal questionario la garanzia dell'anonimato degli insegnanti non appare affatto evidente. Grazie Alessandra Zigain. Alle altre notizie. In seguito al crollo parziale del controsoffitto nei locali della sesta circoscrizione del comune di Udine, la giunta comunale ha varato un piano straordinario di monitoraggio e mappatura del rischio degli immobili di competenza destinati a sedi di lavoro. Lo ha annunciato il sindaco Alberto Felice De Toni, che ha già informato i dipendenti comunali dell'iniziativa attraverso una lettera dedicata. Con questo piano straordinario vogliamo prevenire rischi, garantire ambienti di lavoro sicuri e rafforzare la fiducia dei cittadini nei luoghi pubblici della nostra città, scrive il sindaco di Udine. Qualora delle verifiche emergessero necessità di interventi edilizi, questi verranno prontamente programmati. 12:43 minuti, 30 secondi, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo coperto sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature delle 11:00 a Trieste e a Gorizia 9,5 gradi, a Udine 8,5, a Pordenone 7, nell'area montana a Tolmezzo 3 gradi, a Tarvisio 2, a Sappada 5 decimi di grado positivi, sul Piancavallo 2,5 gradi, a Forni di Sopra 1 grado, sul Lussari meno 1, sullo Zoncolan 1,5 gradi sotto lo zero, sulla costa Lignano 8,5, a Grado 8. E ora le previsioni a cura dell'ARPA per il resto della giornata di oggi. Avremo cielo nuvoloso con atmosfera umida e locali foschie, precipitazioni deboli e intermittenti sulla zona montana, specie sulle prealpi, con quota neve a 900-1000 metri circa, possibili piovigini sulla pianura. Camminare per la pace dalle coste dell'Oceano Atlantico, del nord della Spagna fino a Gerusalemme attraverso l'Europa, ma non solo. Un'idea che arriva da un giovane attivista olandese. Il via il prossimo fine settimana da Finisterra in Spagna, ma ce ne saranno anche altre di partenze durante l'anno da altre capitali europee, tra queste Lubiana. E il percorso lambirà anche il nostro territorio. La conclusione del cammino è prevista a giugno 2027 a Gerusalemme. L'iniziativa è stata presentata questa mattina, ma ci racconta di più del Peace Walk dall'Europa a Gerusalemme Alessandro Capuzzo, della Tavola per la Pace. Questo ragazzo si chiama Rico Forberg, è di Amsterdam, fa parte di una rete specifica olandese che si occupa di pace. L'abbiamo conosciuto, abbiamo sintetizzato un po' il discorso per quanto riguarda il nostro tipo di interesse e ci siamo focalizzati nell'organizzazione di un ramo del Peace Walk to Jerusalem, che parte da Lubiana e va attraverso Trieste, Capodistria, Fiume, Mercopal e Bihać fino a Sarajevo. Ci sarà poi anche un ramo o un tratto che verrà percorso in territorio italiano? Questo è ancora completamente in lavoro. Per adesso mi limito a dire che è ragionevolmente possibile che ci sia un percorso dal Veneto fino a Trieste. La Walk of Peace che conosciamo noi nel territorio confinario è quella che passa attraverso i luoghi del primo conflitto mondiale, ma adesso trova un'altra dimensione, una dimensione più europea e anche balcanica. Quali sono state le sfide maggiori nel portare a compimento la fase organizzativa? Ci siamo organizzati pensando a questa esperienza, le marce mondiali per la pace, sul fatto che abbiamo grosso pensiero e di conseguenza interesse nei fatti della ex Jugoslavia, tanto che il ramo che abbiamo costruito verso Sarajevo costituirà anche il punto di incontro di tutti i pellegrini provenienti dal resto d'Europa. Questo sabato, in coincidenza con la partenza da Finisterra, facciamo una camminata simbolica interconfinaria da Sejana a Opcina. Saremo ospiti del Prosvetni Dom di Opicina. Faremo un breve programma culturale dopo aver fatto e concluso la camminata interconfinaria. Il Friuli Venezia Giulia si posiziona tra le regioni leader in Italia per diffusione delle società benefit, organizzazioni che operano con l'obiettivo di generare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente insieme al profitto finanziario. Al 30 settembre 2025, con 129 società benefit su un totale di oltre 45.000 imprese, la regione registra un'incidenza pari al 2,8 per mille, che la colloca al secondo posto a livello nazionale subito dopo la Lombardia. La performance regionale si distingue anche sul fronte della crescita. Le società benefit in regione sono aumentate di quasi il 40% rispetto all'anno precedente, ben al di sopra della media nazionale del 22%. Il dato regionale si inserisce in un quadro nazionale in espansione. A livello italiano le società benefit hanno superato quota 5.300 con un valore della produzione aggregato che sfiora i 68 miliardi di euro. 100 anni fa nasceva in Pakistan Abdus Salam, che nel 1979 avrebbe ottenuto il premio Nobel per la fisica. Salam fu tra i fondatori del Centro Internazionale di Fisica Teorica di Miramare, che oggi lo ricorda con un convegno dedicato alle sfide della scienza e alle tecnologie quantistiche. Saranno un bene comune o finiranno nelle mani di pochi? Abbiamo intervistato Sandro Scandolo, coordinatore area ricerca del ICTP. Chi era Abdus Salam e perché è importante ricordarlo? Abdus Salam è il fondatore del nostro centro, del Centro Internazionale di Fisica Teorica, nato 100 anni fa, proprio questo giorno. È uno scienziato che forse è il più grande fisico teorico del secolo passato, che però ha avuto anche, diciamo, 60 anni fa questa bellissima idea di mettere la scienza a disposizione del mondo, se vogliamo, quindi degli scienziati che da ogni angolo del mondo possono venire qui al nostro centro. E allora riuscì a convincere varie agenzie internazionali, l'UNESCO, le Nazioni Unite, assieme a Paolo Budinic ovviamente, a creare questo centro che per 60 anni è stato un po' un crocevia della scienza mondiale, soprattutto nella fisica e della matematica. Oggi celebriamo appunto il centenario guardando avanti, guardando a quelle che sono invece le sfide scientifiche di questo secolo. E le sfide scientifiche di questo secolo sono principalmente quelle legate alla meccanica quantistica che anch'essa, compie 100 anni, li ha compiuti l'anno scorso, ma che diciamo solo ora si è scoperto che può avere delle applicazioni tecnologiche estremamente interessanti, a partire dai calcolatori quantistici, ma tante altre tecnologie basate sulla meccanica quantistica. E proprio questa settimana abbiamo i due esperti mondiali in questo campo, Zoller e Sirac, che ci hanno raccontato proprio sia i fondamenti teorici che la ricerca e soprattutto le applicazioni che la meccanica quantistica può avere nel futuro. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Tre comuni entrano a far parte del consorzio universitario di Pordenone, la cui assemblea ha formalizzato la nuova compagine sociale. Gli studenti iscritti sono oggi 1500, ma potrebbero salire fino a 2000. Il consorzio universitario di Pordenone cresce con l'ingresso di tre nuovi soci, comuni di Azzano Decimo, Cordenons e Spilimbergo, la cui entrata è stata formalizzata in mattinata alla riunione dell'assemblea che ha anche approvato il bilancio previsionale 2026, un anno di transizione in vista del trasferimento di una parte dei corsi al Centro Valle, la nuova sede da 5.000 metri quadri nel cuore della città che ospiterà anche uno studentato. Un'opera complessa, con il mese di febbraio si concluderà la fase di validazione dei progetti e che negli anni successivi richiederà il reperimento di nuove risorse finanziarie. Il presidente del Consorzio Universitario di Pordenone, Paolo Candotti. Innanzitutto il bilancio mostra dei conti in salute. In questo anno di consolidamento stiamo lavorando alacremente per la predisposizione dei nuovi spazi nel Centro Valle, che vedranno poi alla fine del 2027 la possibilità di ingresso appunto degli studenti. La situazione spazi in quest'anno è ottimale, nel senso che si libereranno degli spazi nel centro di via Prasecco e gli spazi che precedentemente erano occupati dai corsi dell'ITS Alto Adriatico, che si sposteranno nei nuovi spazi che l'ITS Alto Adriatico ha predisposto nel centro valle. Sono 1500 le studentesse e gli studenti attualmente iscritti. A regime il numero potrebbe crescere fino a 2000. Tra le progettualità c'è anche l'ipotesi di acquisire l'ex sede ARPA per ospitare laboratori didattici e di ricerca. Ancora Candotti. L'asset polo universitario, consorzio universitario, è percepito dal territorio appunto come un asset strategico, come una risorsa del territorio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli sarà Cesare Cremonini, il protagonista del primo grande concerto nella riqualificata area dell'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta a Gorizia. Il 31 maggio, la data zero del tour Cremonini Live 26, i biglietti si potranno acquistare in rete da domani mattina. Per il tour sono già venduti 250.000 tagliandi. Il concerto fa parte della rassegna Go to Pordenone and Friends, programma che unisce Nova Gorizia a Gorizia 2025, capitale europea della cultura, a Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. La data di Gorizia anticiperà di una settimana il doppio concerto di Roma e la successiva tappa milanese. Tra gli spettacoli di questa sera, il Francesco di Simone Cristicchi al Teatro Nuovo di Udine, la storia del santo che si definiva un nuovo pazzo e che decise semplicemente di seguire il Vangelo. Oggi, dice Cristicchi, sarebbe avviato al trattamento sanitario obbligatorio. Al Verdi di Gorizia arriva l'Otello di Shakespeare con la drammaturgia di Dacia Maraini e Giacomo Giorgio nel ruolo del Moro di Venezia. A Trieste la stagione della Contrada propone al Teatro Bobbio Mirror, uno spettacolo falso e non autorizzato con Ninni Bruschetta e Greg. E a Sacile arriva A qualcuno piace caldo, adattamento teatrale del film di Billy Wilder con Euridice Axen, Giulio Corso e Gianluca Ferrato. E siamo allo sport. Pallacanestro Trieste sconfitta a Tenerife dopo aver pregustato un nuovo successo in trasferta, ma il passaggio del turno in Champions non è compromesso. Ora i biancorossi avranno a disposizione tre partite consecutive in casa per ottenere i punti necessari alla qualificazione. Vicina la seconda impresa che avrebbe potuto valere di fatto già la qualificazione al turno successivo nel girone degli ottavi di finale di Champions League. Stavolta le Canarie sono amare per la miglior pallacanestro Trieste della stagione. Dopo la vittoria Gran Canaria della scorsa settimana, a Tenerife arriva una sconfitta per 84-82 dopo una partita non solo condotta ma dominata per larghissimi tratti, nonostante le assenze di Sissoko e Moretti si sia aggiunta all'ultimo quella del miglior marcatore Ramsey. Eppure la partenza e soprattutto il secondo quarto sono stati sfavillanti. un attacco precisissimo dalla distanza orchestrato da un buon Ruzier e una difesa capace di reggere l'urto contro un'avversaria tra le più quotate, zeppa di talento ma con un'età media ben oltre i 35 anni. Tra il secondo e il terzo periodo i biancorossi accumulano anche 16 punti di vantaggio tirando oltre il 50% da tre, con ottime risposte da Brown, Brooks e Toscano Anderson. Il messicano però esulta troppo e con un fallo tecnico evitabile propizia involontariamente la prima rimonta dei canarini, che con l'esperienza di un quintetto di due ultra quarantenni restanti 3 sui 35, tra cui l'ottimo Fittipaldo, ribalta il match cercando punti dalla lunetta e da tiri aperti, mentre l'attacco di Gonzales è stanco e non riesce a produrre. Scivolata sotto di 5 a 2 minuti dalla fine, la squadra triestina rientra con Ross e una tripla di Yutov dall'angolo. Con una difesa perfetta si guadagna l'occasione di provare a vincere il match. La penetrazione centrale di Brown però è imprecisa. Per Ruzier e compagni, prossimo impegno in campionato, domenica in casa con Treviso, poi sfida sempre al Palatrieste contro i cechi del Nymburk per una partita che vale mezzo passaggio del turno. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione che vi è stata proposta da Andrei Marusic e Giampaolo Mauro. Coordinamento tecnico di Mauro Ciccarelli e Viola Romanese, ha collaborato in redazione Laura Sarasini. 12:55, prossima edizione alle 15. Grazie per il vostro ascolto. Buon pomeriggio.